Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Benvenuti a Smart City, riprendiamo questa sera con gli speciali di Smart City della serie Il Futuro e oggi in collaborazione con Audi. Parleremo di intelligenza artificiale, se ne sente parlare sempre più spesso, ma in definitiva di che cosa si tratta? C'è un solo tipo di intelligenza artificiale o ce ne sono molti? Quali sono le differenze e quali sono le strade che si stanno tentando realizzarle? Che cosa nascondono termini come cognitive computing o deep learning? Com'è il mondo visto da un robot? Domande alle quali appunto tenteremo di rispondere nel corso delle 5 puntate di questo speciale Smart City. E poiché ciò che distingue un'intelligenza artificiale da un qualunque altro programma è la capacità di apprendere, è da qui che inizieremo, perché ci sono tanti modi di essere intelligenza artificiale e a ognuno di questi corrisponde un diverso modo di apprendere. Allora cerchiamo di orientarci in questo mondo con l'aiuto di Giorgio Metta, che è direttore dell'iCube Facility dell'Istituto Italiano di tecnologia, dove guida lo sviluppo del robot umanoide iCube, che insomma tutti conoscono. Benvenuto Metta, grazie di essere qui. Grazie a voi. Allora, dicevamo, ci sono diversi modi di essere intelligenza artificiale, ci sono diverse strade, quali sono le principali? Storicamente l'intelligenza artificiale è nata seguendo un approccio basato su regole, dove forse l'apprendimento non era neanche presente, quindi sistemi che venivano costruiti di fatto dal programmatore umano mettendo insieme delle regole che tentavano di in qualche modo dare all'intelligenza artificiale la capacità di rispondere a certi quesiti o a certi problemi utilizzando questo insieme di regole, quindi sistemi un po' rigidi. In qualche modo riversavamo, parliamo di 60 anni fa, certo, la nostra conoscenza esperienza del mondo, un sistema dentro, esperto, no? Insomma. Esatto, dentro un software. Si è poi capito che questa strada era molto difficile. I migliori sistemi esperti, anche dopo anni di programmazione, in realtà fallivano abbastanza spesso, soprattutto non risolvevano i problemi dove invece noi umani siamo bravissimi: distinguere gli oggetti, riconoscere il parlato, muoverci, manipolare l'ambiente. Per cui si è passati a sistemi diversi basati sull'apprendimento a partire dai dati, quindi approcci che possiamo chiamare statistici, dove si accumulano dati, si accumulano informazioni sul mondo e si cerca di chiedere all'algoritmo di distinguerle, di dividerle, di organizzarle in modo poi da poterci ragionare sopra. Ecco, per esempio posso porre una domanda a uno di questi sistemi di intelligenza artificiale. Lui ha un grandissimo database, va in cerca all'interno dei dati di cui dispone di una domanda simile o magari di tante domande simili, fa una media fra le risposte e mi propone quella lì. È più o meno così. Sì, in qualche modo sì, e per farlo e per essere affidabile questi sistemi hanno cominciato a richiedere quantità di dati sempre maggiori. Quindi, big data cosiddetti. I cosiddetti big data. Quello che è importante di questi sistemi è che di fatto apprendono dai dati, quindi ce li preorganizzano, li dividono, a volte secondo una logica che non è necessariamente quella umana. Sono sistemi che, se andiamo a guardare cosa c'è dentro, tante volte non capiamo esattamente come sono stati divisi questi dati. Perfetto, veniamo a quella che è la strada più recente che si sta percorrendo, che chiama in causa degli oggetti chiamati reti neurali, che simulano, anche se in modo naturalmente semplificato, diciamo, il funzionamento del sistema nervoso centrale, delle reti del sistema nervoso. Sì, in maniera molto semplificata, soprattutto le reti neurali riproducono quello che è il parallelismo del cervello, quindi la possibilità di elaborare in parallelo tanti dati. Quindi un'immagine dentro una rete neurale non viene in qualche modo letta per righe come una TV dei tempi passati, ma viene portata interamente come l'immagine dentro la rete neurale. Quindi, cioè, tutti i punti dell'immagine vengono elaborati contemporaneamente, potremmo dire così, e non uno per uno in sequenza come avviene su una televisione o anche in un computer in molti casi. Anche in un computer. Poi qui, insomma, l'implementazione bisogna fare dei distinguo, sì, certo. Però almeno in linea teorica. Sì. Stiamo semplificando tutto, è chiaro. C'è un'elaborazione parallela. Il risultato è che si sono cominciati a trovare dei metodi per realizzare delle reti neurali sempre più grandi. Ora, le reti neurali non sono nate negli ultimi anni, no, sono cose ben più antiche, però si è raggiunta la possibilità, con l'aumentare della capacità di calcolo, okay, appunto, di fare delle implementazioni in reti neurali piuttosto grandi. La cosa interessante è che la rete neurale fa un altro lavoro aggiuntivo rispetto ai metodi che potremmo definire statistici, che è quello di creare delle rappresentazioni intermedie dei dati. Queste rappresentazioni che vengono create dentro questi neuroni artificiali, che vuol dire semplicemente che abbiamo tanti strati, quindi possiamo creare anche una gerarchia di rappresentazioni, consente di organizzare meglio i dati e soprattutto consente poi di riutilizzarli, quindi la stessa rappresentazione può essere utilizzata numerose volte per riconoscere cose diverse, quindi un po' più efficiente. Allora, grazie Giorgio Metta, ma ci risentiamo nella quarta puntata di questo speciale per parlare di robot umanoidi, che poi è un po' la sua specialità. Grazie, grazie a voi. Ci fermiamo qui per intanto, appuntamento a domani.